Picchetto. Picchetto. Picchetto. Picchetto. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti su Radio Picchetto. Io sono Daniel. E io sono Lucilla, vengo dal reparto Busto, canzonetto 1-2. Io vengo dal reparto Armstrong di Bologna, il 5. Oggi abbiamo in programma per voi un bel po' di cose per un risveglio con la carica giusta. Però incominciamo con una canzone. Esattamente. Che ha portato Lucilla, tra l'altro. Che è I Want to Break Free. Speriamo che questa canzone vi abbia dato la carica, ma insomma, tra risvegli troppo presto e quadre da rifare, si danno molto spesso un po' i numeri. Ma oggi i numeri ve li diamo noi. Infatti, vi diamo esattamente il numero di reparti, pattuglie, esploratori, insomma tutte queste cose qua. Infatti siamo ben 152 reparti, 570 pattuglie, 3150 esploratori e 365 staff. 220 rover e 475 servizi, 300 ragazzi stranieri più due reparti agesci, che siamo veramente in troppi. Siamo tantissimi e questi reparti stranieri, tra l'altro, sono molto diversi da noi in alcune cose. Hanno un'uniforme completamente diversa. Come appunto infatti le camicie. E infatti noi ospitiamo Francia, Israele, Egitto, Spagna, Regno Unito, Germania e Polonia ed hanno tutte camicie diverse. Ad esempio la Spagna ha una camicia azzurro chiaro. L'Egitto invece è marrone come i tedeschi. La Francia ha la camicia rossa. Il Regno Unito invece non ha la camicia. I polacchi sono quelli col cappellino strano. La camicia verde scuro. E gli israeliti sono ugualmente, hanno indossano ugualmente la camicia marroncina e la Francia rossi. L'avevo già detto. Vabbè. Che poi gli egiziani c'hanno un'altra cosa particolare, no? Hai visto? Sì. Che cos'è che suona? C'hanno il tamburello, tipo. Ieri tra l'altro. No, va bene, parleremo dopo. Comunque, ora vi mandiamo un'altra canzone. Che questa volta ho scelto io, che è Who We Are degli Imagine Dragons. Eccoci di nuovo qui e per spiegarvi un po' come è organizzato il nostro campo, vi diciamo un po' l'organizzazione nei sottocampi. Ci sono vari nomi e ogni nome proviene da un libro. Ad esempio c'è il primo sottocampo sulla nostra mappa del libretto, c'è Avventura, leggetelo mi raccomando, e... che è il Jolly Roger. Il Jolly Roger credo provenga da Stevenson, l'isola del tesoro. E, fantastico, tocca a te, vai. Poi c'è Vector Building, che è la casa di Fantastici 4. Palà, vabbè. Craven Road 7, che non... Boh. Ah sì, giusto, Dylan Dog, fantastico. Poi c'è Sherwood, che è ovviamente Robin Hood. La fabbrica di cioccolato, che proviene dalla fabbrica di cioccolato. Svalbard, che è... da una fonte non ben precisa. Potrebbe essere la bussola d'oro, ma non ne siamo assolutamente sicuri. Ok, fantastico. Poi c'è delle meraviglie, che ovviamente che proviene campo. Esattamente dal nostro campo e ovviamente proviene dal paese delle meraviglie. Fantasia. Boh. La storia infinita, Fantasia, certo. Chi non lo sa? Chicago 2347. Crediamo da Chicago PD o Chicago Fire, ma non fate affidamento su di noi, perché noi non siamo molto affidabili. Poi c'è Baker no, Street. No, Baker Street, Sherlock, non me lo tocchi. Poi c'è Baker Street. Ok. Ovviamente il 221B, la casa di Sherlock ecco Holmes. Ecco la nostra fonte non ben precisa. Ciao raga, allora Chicago 247 è Divergent, quindi la fonte non ben precisa è molto informata. Divergent, grande, grazie, fonte non ben precisa. Baker Street l'hai detto tu. Avalon è dalla spada nella roccia, credo. Penso più Re Artù, che comunque però c'entra. Sì, vabbè, Va bene. E poi c'è Neverland, che è l'isola che non c'è. L'isola che non c'è. Ok. Pezzaccio, fantastico. Vai. Il prossimo pezzo è 50 è... Special Cremonini. Fantastico. Allora, eccoci di nuovo qui. E allora, prima abbiamo parlato appunto dei sottocampi e abbiamo detto che sono ispirati ai luoghi di alcuni celebri libri. Ma perché? Perché c'è un motivo ben preciso. Ieri sera abbiamo fatto il primo fuoco, che era un modo per dare il benvenuto a tutti noi. C'è stato l'alzabandiera, esatto, ci sono stati salutati tutti i capi, tutti i servizi. E c'è stata anche una storia. Questa storia c'entra appunto con i nostri sottocampi, perché questa storia parla di alcuni ragazzi che hanno avuto degli indizi e sono riusciti a capire che c'è una biblioteca, la biblioteca d'Alessandra, che è una delle biblioteche più grandi e fantastiche del mondo. Comunque, la biblioteca di Alessandria, come sapete, è stata bruciata, distrutta, spostata ovunque. E poi quindi dispersa. I ragazzi si recavano ogni volta nel luogo in cui era stata spostata la biblioteca e alla fine trovano il bibliotecario e si scopre che proprio qui nel nostro campo a Via Alfre risiede la biblioteca di Alessandria. È per questo appunto che i nostri sottocampi prendono il nome di alcuni libri, perché la biblioteca è minacciata dal classificatore, che non si sa bene cosa sia in realtà. Qualcosa che si nutre del cuore dei libri e noi dobbiamo cercare di salvare. Cerca di fare l'unico libro fantastico che li contiene tutti, tipo l'anello del Signore degli Anelli. Ok. E niente. Questi ragazzi, inoltre, mentre ci hanno raccontato la storia, c'era anche un grandissimo proiettore fantastico che ci ha proiettato una storia raccontata dal bibliotecario, che raccontava appunto di questa biblioteca che veniva distrutta, spostata. E bisognava trovarla, perché bisognava salvare tutti i libri. E poi c'è stata una canzone in particolare che è stata ripetuta, mandata in loop, ripetuta in continuo mille volte, e noi non possiamo non mandarvela, quindi ve la manderemo anche noi. Quindi un saluto da Radio Picchietto, da Daniel e Lucilla. Ciao a tutti. Picchietto, Picchietto, Picchietto. Picchietto, Picchietto, Picchietto. Eravamo ragazzi.